Dopo il voto del Parlamento del 24 settembre, in cui il Parlamento aveva efficacemente emendato questa proposta di direttiva sulla brevettazione del software, la presidenza irlandese, tratta in carico dopo quella italiana, ha di fatto portato in consiglio una proposta cosiddetta di compromesso che in realtà ha completamente eliminato tutti gli emendamenti votati democraticamente dal Parlamento europeo e in più ha appesantito alcune delle iniziali proposte della Commissione, rendendo di fatto completamente legale brevettare il software in Europa se questa proposta di compromesso dovesse passare. Sono stati eliminati anche emendamenti come fondamentali come quello sull'interoperabilità e per esempio la non brevettazione o comunque non perseguibilità della semplice pubblicazione delle scoperte come richiesto normalmente dai brevetti. Questa proposta di direttiva di fatto con la scusa di armonizzare le pratiche legislative nell'Europa intera si propone di permettere la brevettazione del software, quindi un'ulteriore analisi di algoritmi, metodi di business, cioè metodi commerciali e algoritmi in genere, matematica eccetera. Come ovvio questo è un grosso problema per tutti gli sviluppatori indipendenti e soprattutto ma comunque anche per chi sviluppa software libero, in quanto software libero prevede la libera ridistribuzione del software senza nessun impedimento. Il brevetto, al contrario di quello che fa il copyright, permette di fatto di bloccare un intero spazio di algoritmi o piuttosto che soluzioni tecniche nel campo del software, per cui non basta un'implementazione alternativa come viene oggi con il diritto d'autore per risolvere questo problema, ma si è completamente impediti nel portare avanti lo sviluppo tramite software libero o anche tramite software proprietario concorrente nel caso in cui un certo campo di applicazione venga coperto da brevetti. Per questo è molto importante evitare che, come già è successo invece negli Stati Uniti, si permetta di estendere l'istituto del brevetto, che è nato per permettere un monopolio temporaneo in campi in cui gli investimenti necessari per portare innovazione erano ingenti e per cui era necessario questa forma di monopolio per permettere l'investimento da parte di soggetti privati. Nel campo del software l'innovazione invece è incrementale, avviene per piccoli passi ed è stata, come dimostra per esempio la storia di Internet, che è sicuramente uno degli esempi più lampanti, basata completamente su una forma cooperativa e comunque di piccoli passi di innovazione. Una forma come l'istituto brevettuale che dura 20 anni, che nel campo del software è un tempo estremamente lungo e completamente fuori da ogni schema di innovazione. Nel campo del software un'innovazione può durare 2, 3, 4 anni, dopodiché è completamente sorpassata. Per cui la forma brevettuale come si usa al giorno d'oggi, applicata al software, di fatto è un completo blocco all'innovazione, perché per 20 anni queste soluzioni vengono completamente precluse a tutti coloro che non sono in possesso del brevetto, che non se lo possono permettere. E quindi che anche la comunità del software libero, e non solo, anche molte aziende europee, circa 2 milioni di piccole e medie imprese europee hanno più volte sono più volte opposte a questa direttiva, che di fatto va a vantaggiare pochi soggetti che hanno le risorse finanziarie per finanziare una fortissima campagna di brevettazione a tappeto e che gli permette di fatto di buttare fuori tutte le piccole imprese che invece non hanno queste possibilità. Infatti registrare brevetti costa molto, molto relativamente a quello che può essere una piccola impresa o addirittura uno sviluppatore indipendente, e ci sono al momento già registrati, benché non completamente validi, 30.000 brevetti in Europa, di cui il 60% detenuto da grosse aziende extraeuropee, soprattutto statunitensi e giapponesi, che hanno di fatto spinto per portare questa brevettazione regolarizzata e ufficializzata in Europa.